24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:30 minuti, eccoci qua, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Con 24 mattino, e voglio ricordare subito il sondaggio di cui ci occuperemo oggi. Oggi parliamo di province, le vogliono abolire tutti, almeno in campagna elettorale. Poi succede che ieri si vota una legge costituzionale per andare avanti con l'abolizione delle province, è stata affossata con i soli voti contrari di UDC e Italia dei Valori, tutti gli altri hanno detto le province, no, rimangano pure. La domanda è secca, voi le abolireste le province? Sono uno spreco oppure sono qualcosa di utile? Insomma, di questo parleremo alle 8:30, dovete votare su radio24.it, alla home page, un po' in basso a destra trovate bianco o nero, andate lì, cliccate, votate, oppure su ilsole24ore.com, e noi ne parliamo più avanti, ora la lettura dei giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta in primo piano le pensioni, l'economia e l'attualità politica, soprattutto sull'affossamento di un'altra legge che sta facendo discutere, quella cosiddetta sull'omofobia. Questi sono i due temi che catalizzano le aperture dei giornali. Le pensioni dopo l'uscita del governatore di Banca Italia Draghi. È infatti l'apertura del Sole 24 Ore: Draghi più tardi in pensione, Sacconi no a modifiche, Marcegaglia politica industriale da cambiare. Draghi alzare l'età pensionabile, anche questa è l'apertura del Corriere della Sera. La Repubblica invece punta sulla vicenda della legge sui gay. Affondata la legge sui gay, questo è il titolo di Repubblica. Draghi in pensione più tardi è l'apertura invece della Stampa. Insomma, come detto, è questo uno dei temi che trovate molto analizzato su tutti i giornali. Comincerei proprio da questo. All'interno, Draghi alzare l'età pensionabile, all'interno del Sole 24 Ore, sto leggendo a pagina 3, indispensabile un aumento significativo, subito la riforma degli ammortizzatori, questo ha detto sostanzialmente il governatore di Banca Italia. E tra l'altro a pagina 5 si legge anche su questo tema la replica della leader dell'industriale Emma Marcegaglia, sotto il titolo dell'articolo Marcegaglia si può fare di più in termini di politica industriale. Ieri Marcegaglia ha parlato anche proprio del possibile allungamento dell'età pensionabile. Si può sempre fare di più, ha detto, ma con gli ultimi adeguamenti del pacchetto anticrisi è già stato introdotto un aggiustamento che entrerà in funzione nel 2015. Un'eventuale anticipazione dei tempi è da valutare. Emma Marcegaglia, che poi appunto ha dato quello che ha definito un giudizio di insufficienza sulla politica industriale del governo, e chiediamo, ha detto, che i capitoli fondamentali per dare competitività alle imprese siano rifinanziati. Tra l'altro sul tema delle pensioni ci sono diverse interviste e diversi commenti molto interessanti, a cominciare dal commento che ospita in prima pagina della Stampa Mario De Aglio, la verità che nessuno vuole sentire. Un'osservazione pressoché ovvia del governatore di Banca Italia Mario Draghi, scrive De Aglio nel corso della sua lezione tenuta ieri al CERP Collegio Carlo Alberto, ha scatenato un putiferio. Parlando sui motivi dell'assicurazione sociale, il governatore ha osservato che con l'aumento della durata della vita le pensioni erogate dal sistema pubblico saranno più basse rispetto ai salari di quelle erogate finora. E ancora più avanti De Aglio dice: l'allungamento della vita lavorativa del resto corrisponde a un concetto di equità. In media chi va in pensione adesso vive qualche anno in più e con un livello di salute migliore di quanto era previsto quando ha cominciato a lavorare. Perché tutto questo bonus di vita deve andare al pensionamento, ossia a una fase inattiva della vita a carico della collettività? E perché invece una parte non dovrebbe essere dedicata al proseguimento della vita lavorativa per ripagare il costo della pensione che gli anni bonus comportano? Eppure l'idea di toccare un caposaldo della società italiana ha unito per miracolo destra e sinistra nella difesa dell'esistente. Così scrive Mario De Aglio in prima pagina e poi all'interno della Stampa. Tra l'altro è anche interessante un'intervista che invece il Quotidiano Nazionale fa a Giacomo Vaciago. Giacomo Vaciago, che insegna all'Università Cattolica di Milano, economista, e dice: Draghi non ha parlato di allarme, è stato molto cauto, ma in futuro bisogna modulare l'età del pensionamento sulle aspettative di vita, il che è inevitabile, dice Vaciago. D'altronde siamo il paese dove si lavora meno. E cosa dovrebbe fare allora il governo? Non credo che debba intervenire subito, penso a un'azione in due tempi. Il primo tempo è quello della crisi e l'emergenza non è ancora finita, poi superata quella fase si dovrà completare quello che è stato fatto e adeguare tutto il sistema della protezione sociale. Rimanendo in tema di economia, anche se spostando un po' l'obiettivo dal tema pensioni e previdenza che trovate su tutti i giornali, c'è un interessante editoriale di Francesco Giavazzi in prima pagina del Corriere della Sera. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ricordate, nella segna stampa di IRAP, la tassa dell'IRAP, l'imposta regionale. Ebbene, oggi Giavazzi fa un editoriale molto duro dal titolo «L'IRAP punisce chi dà lavoro». Non sono molte le aziende che quest'anno chiuderanno il proprio bilancio in attivo, ma tutte, anche quelle che nel 2009 perderanno, dovranno pagare l'IRAP. Un'imposta che non colpisce i profitti, ma il costo del lavoro. Faccio un esempio, scrive Giavazzi. Un'azienda che quest'anno fattura 5 milioni, a un costo del lavoro diciamo di 3 milioni, pagherà 100.000 euro circa di IRAP, anche se chiuderà il bilancio con una perdita di 100.000 euro. L'IRAP, cioè, raddoppierà le perdite di questo imprenditore. So bene che l'IRAP è un'imposta regionale, che sostituisce la vecchia tassa sulla salute e serve per pagare la sanità pubblica, ma allora consentiamo alle aziende di considerarla al pari degli altri oneri sul lavoro, così almeno sarebbe interamente deducibile. E poi Giavazzi si rivolge a Tremonti, dice: il ministro dell'economia accusa le banche di strozzare le imprese lesinando il credito, afferma di non comprendere perché le banche non usino la possibilità che gli offre di finanziarsi coi Tremonti bonds, per la quale la legge finanziaria ha stanziato 12 miliardi di euro. Il motivo per cui le banche rifiutano questa obbligazione è molto semplice per Giavazzi. Oggi possono finanziarsi sul mercato a condizioni più favorevoli di quelle che offre loro il Tesoro. Le renda più appetibili e vedrà che le banche le utilizzeranno. E ancora, perché non destinarli quei 12 miliardi all'abolizione dell'IRAP? Questa dunque è la proposta concreta di Giavazzi, che però dice: ciò che invece temo è che tra qualche giorno leggeremo che quei 12 miliardi sono stati destinati a finanziare la Banca del Sud, cioè non ad aiutare le imprese o tutte le imprese, bensì le più furbe, quelle che creeranno attività fittizie nel mezzogiorno per accedere ai finanziamenti della nuova banca, e non sarebbe la prima volta. Questo dunque l'editoriale sull'IRAP, un tema, ripeto, che sta facendo discutere nel mondo dell'economia e delle imprese. Veniamo all'attualità politica. Come detto, trovate molto, è l'apertura di Repubblica, sulla vicenda dell'affossamento, o comunque su una pregiudiziale di costituzionalità, è stata affondata la legge cosiddetta sull'omofobia proposta da Paola Concia del Partito Democratico. C'è tra l'altro un caso all'interno del Partito Democratico, perché Paola Binetti ha votato con l'UDC e ha votato per fare affossare questa legge. Voglio partire da Avvenire, con Domenico Delle Foglie dedica l'editoriale di prima pagina dal titolo «Omofobia, due rischi sventati e un problema». Scrive Delle Foglie: ora qualcuno si avventurerà a affermare che c'è libertà di aggressione nei confronti degli omosessuali, qualcun altro in un impeto di esecrazione magari si spingerà a sostenere che lo scellerato via libera è venuto addirittura dalla Camera, confermando la sostanziale cultura omofobica dei nostri rappresentanti. Si tratta di falsità. E poi Delle Foglie dice: è indiscutibile che la materia sia in queste ore incandescente a causa di ripetute aggressioni contro coppie di omosessuali, soprattutto verificatesi a Roma, e se non fosse abbastanza chiaro, anche noi esprimiamo una ferma condanna per questa come per ogni altra forma di violenza. Ma tornando al cuore della questione, la legge è stata stoppata perché il Parlamento ha ritenuto che contenesse in sé un rischio gravissimo, cioè quello di provocare una discriminazione nei confronti di chi omosessuale non è, proprio in virtù dell'introduzione del codice penale di un'aggravante specifica. Dunque, secondo Delle Foglie, il legislatore ha saputo riconoscere quello che appare il rischio più elevato, l'introduzione di un nuovo reato di opinione, un reato nel quale sarebbe potuto cadere, ad esempio, chi avesse sostenuto la bellezza e la bontà sociale del matrimonio storicamente definito, ovvero tra un uomo e una donna. Con simili norme, dice ancora Delle Foglie, per i portatori di questa opinione si sarebbe aperta una sorta di discriminazione nei confronti di quanti, appunto gli omosessuali, non possono accedere al matrimonio tra persone dello stesso sesso. E, tra l'altro, trovate proprio la disfida politica su questo. Per esempio, lo potete vedere in diverse interviste, Rocco Buttiglione dell'UDC, che a pagina 3 di Repubblica dice proprio quello che sostanzialmente ha detto poco fa, scritto anche Domenico Delle Foglie su Avvenire: quel testo discrimina gli etero, con i democratici un'intesa difficile. Dice Buttiglione: sappiamo leggere nella nostra coscienza anche senza aiuto del Vaticano, abbiamo invece avuto contatti con alcuni vescovi, perché per un cattolico sapere quel che pensano i vescovi è come sapere quel che pensa la moglie. Non sempre fai quello che vuole, ma sapere come la pensa ti aiuta a capire come la pensi tu. E ancora solidarietà e stima a Paola Binetti, ma dice: abbiamo votato no contro questa legge perché contrasta col principio di uguaglianza. Gli omosessuali godono della protezione legale di ciascun cittadino. È una legge di discriminazione positiva. E poi ancora: aumentare le pene non serve a nulla, piuttosto ci vorrebbe la presenza delle forze dell'ordine. Buttiglione, che ricorda anche che fu bocciata a Bruxelles come commissario europeo proprio per le sue posizioni sui gay, e dice: quello fu un caso di discriminazione verso di me, ma non porto rancore. Anche se parla poi Paola Binetti. Paola Binetti è colei che nel Partito Democratico ha votato contro. Franceschini ha detto: è un caso, la sua permanenza nel partito non è più così scontata. Ebbene, dice Paola Binetti alla Stampa in un'intervista a Raffaello Masci, che trovate a pagina 5, molto interessante: non ricominciamo con la storia di io cattiva con i gay. Se vuole, non dico la frase fatta "ho tanti amici gay", ma potrei elencarle non solo amici gay, ma anche alcuni tra i miei collaboratori gay. Beh, adesso non esageri, onorevole. Non esagero affatto, dice Rosy Bindi. Binetti lo scriva pure a collaboratori gay. Non faccio i nomi perché non mi pare il caso. E poi ancora dice: sono per il rispetto pieno e indiscusso della persona, ma non condivido la cultura secondo cui i generi sarebbero 5 e non 2, maschile e femminile. E poi omosessualità maschile, omosessualità femminile, transgender, questo è il punto. E ancora: non avremmo certo tutelato i gay con questa legge. Le leggi hanno sempre un dato di principio e un dato di fatto. Sui principi alla base di questa legge non posso essere d'accordo. Ma allora, chiede Raffaello Masci, ma una legge sui gay con lei non passerà mai? Ma è sicuro che serva? Chiude così Paola Binetti, davvero aprendo questo dibattito anche all'interno del Partito Democratico. E a pagina 11 del Corriere della Sera trovate un interessante articolo di la militante gay, la Teodem, dall'amicizia alla rottura, il rapporto tra Paola Concia, che è la prima firmataria di questa legge che è stata affossata, e Paola Binetti, entrambe del Partito Democratico. Scrive Alessandra Rachi: la lesbica Paola Concia che inveisce contro la deputata Teodem. Ieri ci sarebbe voluto una telecamera a filmare la scena. Paola Concia che esce urlante dall'aula della Camera che ha appena bocciato la sua legge, e Paola Binetti che le passa davanti in transatlantico, muta come dentro un film di Kieslowski, cercando rifugio dietro il primo anfratto possibile. Il rapporto di un'amicizia molto intensa che pare davvero essersi rotta su questa legge. Dice la Concia: un giorno ha detto che l'omosessualità è sintomo di devianza, di malattia, non ce l'ho fatta più, eravamo alla Camera e non capisco come possa ancora dire che mi stima se mi considera una malata. Eppure la Binetti che replica: io la Paola Concia la stimo tanto. Vedremo come finirà questa vicenda, davvero tutto interna al Partito Democratico. Sul tema politico, ricordate ieri quando vi ho detto della lettera che Il Giornale ha pubblicato in prima pagina, una lettera di convocazione di Tremonti, di un convegno dell'Aspen Institute in cui si parlava della leadership del dopo e che avrebbe fatto infuriare Berlusconi, parlava addirittura di smagliature nel governo Il Giornale. Ebbene, oggi ci sono, come era presumibile, retroscena, commenti su questo. Berlusconi, Tremonti e quelle tensioni sui leader futuri. Francesco Verderami, a pagina 6 del Corriere, si legge: leggete, leggete, avrebbe detto Berlusconi a Frattini e Maroni con Il Giornale in mano. Leggete cosa mi tocca sopportare, come posso accettare che si lavori contro di me. La lettera della discordia tra Silvio e Giulio. E anche Il Riformista lo mette in prima pagina con una foto di Tremonti: debiti e sospetti su Mister T. Così Tremonti è finito nella lista di Feltri, cioè la lista del Giornale. Un fastidio del Cavaliere per la lettera confermato da più fonti. Chi ha parlato ieri col ministro del Tesoro lo descrive sereno e al tempo stesso a sua volta infuriato. Sereno per la situazione con Berlusconi, furioso con Feltri che, dando ampio risalto al caso, ha inoculato in molti osservatori il sospetto che su Tremonti si stiano addensando minacce simili a quelle già nel 2004, quando gli costarono il trasloco da via 20 settembre. Questo lo trovate sul Riformista, firma Stefano Cappellini, questo retroscena politico. In primo piano. Gli attacchi al Corriere, un'altra risposta. È ancora Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere, che anche oggi risponde in primo luogo a Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Davvero una disfida a colpi di penna anche in trasmissione c'è stata da Gad Lerner all'Infedele, un faccia a faccia sicuramente molto pepato. Oggi ancora gli attacchi al Corriere, un'altra risposta, scrive Ferruccio De Bortoli, ne leggo uno stralcio finale. Come ripete nel commento di ieri Scalfari, nel quale mi paragona Don Abbondio, perché non mi unisco alla battaglia senza esclusione di colpi contro il caimano Berlusconi. Ribadisco, scrive De Bortoli, che un giornale non è un partito. Ha il compito di informare con correttezza e lealtà. I governi li mandano a casa i cittadini, di cui si rispetta la scelta, anche se non la si condivide. E Scalfari non è titolare dell'unica cattedra morale del paese. Poi chiude con un episodio. De Bortoli scrive: all'inizio degli anni Ottanta io ero un giovane redattore economico del Corriere. Il giornale era alla vigilia dell'amministrazione controllata dopo lo scandalo P2 e l'ingresso nel capitale dell'Ambrosiano di Calvi. Era il 20 settembre 82 quando lessi su Repubblica un commento dello stesso Scalfari che chiedeva in sostanza il fallimento del suo concorrente, il Corriere. Un grande liberale, non c'è dubbio. E beh, insomma, la tensione tra Corriere e Repubblica sicuramente continua. Trovate molto anche sui retroscena i resoconti di questo attentato avvenuto alla caserma di Milano. Oggi se ne occupa Oscar Giannino, ve lo voglio ricordare, alle 9, in 9 in punto. Ancora Carlo Bonini parla di questa cellula, definirla cellula, non si sa, in preghiera davanti alla foto di Bin Laden, quella cellula anomala pronta al martirio. A pagina 7 di Repubblica si conferma, scrive Mohamed Game, un martire per caso incubato in un bozzolo di disperata marginalità esistenziale, di abborracciata complicità, che fa comodo chiamare cellula ma che della cellula solo i numeri e il canone formale. E però certo ci si interroga, insomma, se sia il gesto di un pazzo isolato, di tre pazzi isolati, oppure se sia un qualcosa di più. Maroni, segnale contro le missioni in Afghanistan. Questo si legge a pagina 3 della Stampa. L'antiterrorismo, che dice, sono dilettanti ma sono pericolosi. E parla anche Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni, che sarà ospite anche di Oscar Giannino, in un'intervista a Libero dice: è una smentita per chi diceva che si tratta di un singolo pazzo. Non era solo Mohamed Game, certo, però dice Mantovano, non dobbiamo vivere nell'angoscia ma neanche pensare che vada tutto bene. Voglio tornare al Corriere della Sera in prima pagina e leggere un editoriale a firma Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, vale a dire l'accoppiata della casta. Promesse infrante. E i comuni gridarono: una provincia anche a noi. Si parla di province, per l'appunto. E i comuni? Niente i comuni? Deciso a vendicare l'ingrata storia, il deputato leghista Davide Caparini ha deciso di tirare dritto. Vuole a tutti i costi la provincia nuova della Val Camonica, capoluogo Breno, metropoli di 5.014 anime. Direte, ancora un'altra provincia, ma non avevano promesso quasi tutti di abolirle? Certo, prima delle elezioni però. Promessa elettorale vale quel che vale, tant'è vero che il disegno di legge per sopprimerle presentato alla Camera dalla coppia Casini-Di Pietro è già morto. Se dovesse passare l'iniziativa camunica del parlamentare del Carroccio, quella con capitale Breno sarebbe la provincia numero 110. Quando nacquero nel 1861 erano quasi la metà, 59, nel 47 erano già 91. E poi hanno continuato ad aumentare, a dispetto del proposito dei padri costituenti, fino a diventare 95, poi 102, su fino a 109, grazie a new entry e soprattutto al raddoppio di quelle della Sardegna, la quale con l'Ogliastra mise a segno il capolavoro, la provincia a due teste, Tortolì e Lanusei, che di anime ne ha ancora meno di Tortolì, 5.699, un record mondiale. Parliamo di questo anche noi nel nostro sondaggio. Le province. Sergio Rizzo sarà anche nostro ospite, tra l'altro, alle 8.30. Ma potete già votare sul sito Le province, le abolireste voi oppure no? Devo dire che al momento il 90% dice di sì. Ma ci sarà chi sarà a difendere le province alle 8.30, se ne state ne certi. Intanto voglio rimanere sul Corriere, ma lo trovate anche su Repubblica. È un'intervista che farà discutere, la troverete in realtà domani sul magazine del Corriere. Saviano non doveva avere la scorta. Chi è a parlare è il capo della mobile di Napoli, Vittorio Pisani, in un'intervista fatta a Vittorio Zincone, che troverete appunto domani, ma è stata anticipata anche per le sue contenuti, sicuramente che susciteranno polemiche. A noi della mobile, dice Pisani, capo appunto della mobile a Napoli, fu data la delega per riscontrare quel che Saviano aveva raccontato a proposito delle minacce ricevute. Dopo gli accertamenti demmo parere negativo sull'assegnazione della scorta. E ancora Pisani, resto perplesso quando vedo scortare persone che hanno fatto meno di tantissimi poliziotti, magistrati e giornalisti che combattono la camorra da anni. Saviano, dice il Corriere, è stato contattato dal Corriere, si rinchiude nel silenzio, ma è chiaro che l'ha presa malissimo. E tra l'altro il capo della procura della Direzione Distrettuale Antimafia della Verità di Napoli, Franco Roberti, dice: non commento questa opinione personale del capo della mobile, ma vorrei ricordare che il comitato presieduto dal prefetto che assegnò la scorta a Saviano lo fece sulla base di informazioni confidenziali e tutte convergenti. E dunque questa vicenda su Saviano farà sicuramente discutere anche questa. Noi ci fermiamo qui con quest'ultima segnalazione. Voglio ricordare davvero il sondaggio: votate su radio24.it, sull'home page in basso a destra, bianco o nero, il sondaggio. Abolireste voi le province, sì o no? Ne parleremo alle 8.30. Sono le 8.16 minuti, eccoci qua per parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rociani, buongiorno. Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi fa l'ok come, come Fonzi. Cape Canaveral. Quando, come Fonzi, Happy Days, te lo ricordi, scusa, sono molto più banale. Scusa se ti volevo mettere su una navetta e mandarti a migliaia di chilometri. lo so che cubi questo desiderio, ma ti va male, sono ancora allora, qua. Allora, sei ancora non qua. Non spicco nessun volo. Bene per i nostri ascoltatori, soprattutto. Meno male. Parliamo di pirateria informatica, oggi contro, bisogna stare attenti, i conti correnti. I conti correnti, hai letto quello che è successo sabato scorso? Questa forse la so, l'FBI. No, niente FBI. Questa te la sei persa, però il capo dell'FBI che, ragazzi, ha risposto a una mail di quelle che arrivano dalle banche dando tutti i suoi dati, un imbecille cosmico. Ecco qua, no, tra l'altro io volevo portare l'esempio di un nostro capo che si spaventa sempre quando gli arrivano queste mail, attenzione al suo conto corrente, quindi... Sappi che il capo dell'FBI ha risposto a tutto. Guarda, dando è stato violato anche il conto corrente recentemente del numero uno della Banca Centrale Americana, di Ben Bernanke, quindi stiamo attenti perché nessuno può sfuggire. E allora, di cosa parliamo oggi, di questo evento di cui abbiamo letto domenica sui giornali, abbiamo probabilmente visto anche qualche passaggio televisivo sabato sera? Sabato scorso, tra le 19 e le 20, il sito delle Poste Italiane ha subito un attacco di pirateria informatica. È stata un'azione dimostrativa, non si sa che obiettivo avesse, di fatto ha messo in allerta, oltre che l'amministrazione delle Poste, tutti i clienti del servizio sulla vulnerabilità del sistema informatico delle Poste Italiane. Cosa è successo esattamente? Che la home page del sito di Poste è stato modificato e chi si è collegato in quelle ore ha visto un messaggio nel quale i due hacker, autori del gesto, specificavano la loro non intenzione di danneggiare o modificare i dati personali dei clienti, ma invece di dimostrare la debolezza del sistema informatico, appunto, di Poste Italiane. Testualmente gli hacker hanno scritto: per vostra fortuna noi siamo persone non malintenzionate, perché i vostri dati e i vostri account non sono stati toccati, ma cosa succederebbe se un giorno arrivasse qualcuno con intenzioni ben peggiori delle nostre? Oggi cercheremo di capirlo con chi ne sa molto. Pensate che la persona che abbiamo interpellato stamattina è stata definita da un autorevole giornalista, da Giorgio Bocca, un uomo dall'aspetto cordiale, dalla stazza rassicurante, è il capocaccia dei cybercriminali che riescono a violare i segreti delle banche e ad entrare nei circuiti dei computer. Buongiorno al colonnello Umberto Rapetto della Guardia di Finanza. Colonnello, buongiorno. Buona giornata e grazie per questo stralcio dalle pagine di Pandemonium di Giorgio Bocca. Il colonnello Rapetto è uno dei massimi esperti internazionali di pirateria e frodi informatiche, comandante del GAT, il nucleo speciale delle frodi telematiche della Guardia di Finanza. E allora, tecnicamente la manovra di cui abbiamo parlato, che è stata messa a segno a danni delle Poste, comandante, è detta defacement, è un termine inglese, come tanti adesso si sono affacciati anche tra le nostre abitudini, il nostro rapporto con la banca o con le Poste in questo caso. Insomma, è stato sfregiato un sito internet, mi pare, senza danni per gli utenti del servizio bancario di Poste. Diciamo che è stata rigata l'automobile del nostro postino, se così vogliamo fare un paragone di carattere urbano. Il problema è che questa macchina è rimasta comunque in balia di chi potrebbe aver fatto anche altre cose che non ha raccontato e che magari sotto un profilo così esteriore non sono immediatamente evidenti. Teniamo conto che è un gioco, quello del defacement, che va particolarmente di moda e che consiste nel sostituire la pagina principale di accesso ad un sito. E quindi, anche se non è successo nulla, di fatto chi sabato voleva magari utilizzare determinati servizi di Poste Italiane non poteva farlo e quindi comunque un danno è stato creato all'utenza. Credo che possano stare tranquilli gli utilizzatori dei conti online, che non dovrebbero aver subito danni. Utilizzo il condizionale, che credo sia d'obbligo, considerato che una permeazione, un'intrusione di carattere fraudolento può sempre avere delle controindicazioni che non sono immediatamente visibili. Per esempio, comandante, che cosa dobbiamo stare attenti allora, qualora fossimo un utente di un servizio finanziario di Poste Italiane in questo caso? Ma non solo di Poste Italiane, questo vale un po' per tutti i circuiti che utilizzano la formula online per poter dialogare con i propri clienti. Dobbiamo avere accortezza di cambiare la password con molta frequenza. In questa maniera, anche se c'è stata rubata durante una transazione oppure attraverso un'intrusione di questo genere, siamo tranquilli che, cambiata la serratura a casa nostra, nessuno riesce più ad entrare. La situazione non è rassicurante in genere, non è un problema che riguarda l'Italia, è un problema che riguarda il mondo. Si dice che adesso gli hacker amino la tecnica dello slow and low, vale a dire agire lentamente e a basso profilo. Noi siamo abituati a immaginarci le rapine come le vediamo nei film, conseguentemente ci immaginiamo qualcuno che arriva mani in pugno, con le pistole in pugno e che chiede fuori i soldi e scappa immediatamente con il bottino. Invece gli hacker hanno capito che la cosa migliore è quella di entrare in un sistema, fare i propri comodi, piazzare materialmente il software che è in condizioni poi di riaprirgli la porta, la si chiama backdoor, come se fosse un ingresso sul retro, e poi a distanza di qualche mese fare materialmente il grande colpo. Un modo di agire decisamente subdolo, insomma, ma a quanto pare molto intelligente, nel senso che poi va a buon fine. E c'è una ragione tecnica: normalmente i sistemi informatici conservano il log, vale a dire il registro di bordo, magari per 6 mesi. E quindi uno riesce a scoprire quello che è successo in quei 6 mesi precedenti al giorno in cui si scopre che c'è un particolare ammanco. Se questi hanno agito semplicemente 6 mesi o un giorno prima, non ci sarà nessun segnale di quello che possa essere accaduto e sarà troppo tardi poter far scattare le indagini. Ecco, comandante Rapetto, però quello che mi interessava è capire quante volte l'azione dimostrativa porta poi a danni concreti. Ne parlavamo appunto brevemente all'inizio di questa intervista, cioè è possibile che un danno sia preannunciato esattamente come è successo nel caso delle Poste, cioè rispetto a questa azione dimostrativa che è stata messa a segno sabato sera, possa seguire tra qualche mese ad opera degli stessi hacker, qualora non fossero beccati, non so poi se adesso siete coinvolti anche voi nelle indagini, qualora non fossero beccati, possano condurre in porto qualche prelievo ai danni appunto dei nostri conti? No, sgancerei un eventuale incidente futuro da quello che si è verificato sabato con una certa serenità. Teniamo conto che gli hacker brasiliani, che sono maestri in questo genere di attività e che vanno a classificare questo gesto nell'ambito del cosiddetto cyber racket: io faccio una dimostrazione, metto la bomba davanti alla tua vetrina così tu pagherai il pizzo. Fanno attività di questo genere, non solo, in quel modo cercano qualcuno che possa reclutarli per compiere davvero il grande colpo. E quindi un'azione dimostrativa può essere anche semplicemente un'esibizione per dire: se serve un bandito che sa fare certe cose, io sono qua pronto a servire. Ah, benissimo, quindi insomma c'è un messaggio in codice fra i criminali addirittura? Diciamo che esiste una formula di recruiting, di arruolamento di pirati informatici che hanno certe capacità per fare azioni di carattere terroristico o criminale, o anche semplicemente per poter rubare alla concorrenza determinate informazioni. Teniamo conto che la competizione si basa anche su una sorta di intelligence privata che sfrutta qualunque sistema, e entrare all'interno di un computer, di un grosso sistema informatico avversario, può dare la possibilità di vedere quelle che saranno le prossime mosse e quindi riadeguare la propria strategia industriale, commerciale, imprenditoriale per arrivare al successo. Allora, io volevo dare anche un'informazione di servizio per tutti coloro che volessero saperne qualcosa di più rispetto a tutti questi fenomeni che ci circondano e che mettono in pericolo a volte anche il nostro denaro. Il comandante Rapetto ha scritto insieme ad una collega della RAI, Maria Teresa Lamberti, il libro truffe.com, cellulari, internet, bancomat e carte di credito, come difendersi dalle frodi telematiche. Abbiamo parlato, comandante Rapetto, di questo attacco avvenuto al sito delle Poste Italiane, ma a volte possiamo anche essere colpiti individualmente. Lei prima ci suggeriva, per esempio, se avessimo un conto online, di cambiare frequentemente la nostra password, ma in questi casi, a parte, come dire, la clonazione del bancomat o della carta di credito, altri modi con cui un cybercriminale può infiltrarsi in un singolo conto corrente, quali sono e come possiamo difenderci? Diciamo che difficilmente viene preso di mira un singolo soggetto, e quindi per certi versi possiamo stare tranquilli. No, perché volevo arrivare a parlare del furto d'identità. No, infatti il problema è quello di arrivare ad agire in nome per conto di un'altra persona e quindi sostituirsi al soggetto legittimato a utilizzare un conto corrente online oppure utilizzare una carta di credito. Vengono utilizzati stratagemmi più impensati come il phishing. Il phishing è una deformazione del phishing che ormai conosciamo tutti, che è quello che arriva con la posta elettronica. Abboccare, proprio utilizzando, esatto, il termine della pesca. Esatto, quindi abbiamo invece in questo caso un SMS che somiglia a quello che noi abbiamo attivato per poter avere segnalazione dell'utilizzo della nostra carta di credito. Noi riceviamo questo SMS che viene mandato in maniera indiscriminata a una vasta platea di soggetti, e che cosa succede? Che non appena vediamo che sono stati spesi 400 euro a Bucarest e noi non ci siamo mai andati, direi. Un attimo prima, che cosa, scorriamo il nostro messaggio e troviamo se ci sono problemi o se si vuole disconoscere l'operazione, chiamare questo numero. Io sono così, purtroppo ho l'ipermetropia, non ci vedo più da vicino perché invecchiando succede anche questo, non riesco a vedere, mi sembra un numero 800, quindi un numero verde, invece magari è un numero 899. Chiamo quel numero facendo scorrere il cursore sul mio display, e quindi quando va a centrare il numero e lo va a evidenziare faccio l'ok col telefonino, perché è più comodo che fare altre operazioni. E lì possiamo dire addio al nostro deposito. E sì, perché a quel punto noi entriamo in contatto con una centrale telefonica che in realtà ci dice di inserire il numero della carta di credito, dare la data di scadenza, dire qual è il codice CCV che è scritto sul retro, e quindi siamo caduti nella trappola. E nessuno, invece, la precauzione buona sarebbe quella di conservare il numero verde, quello vero, all'interno del portafogli e verificare e fare il confronto immediatamente. Esatto. Ci sarebbero tanti altri suggerimenti. Colonnello Rapetto, stamattina non abbiamo il tempo, ma torneremo a disturbarla di sicuro nei prossimi mesi. Intanto le auguro una buona giornata. Una buona giornata, e domani su Nova 24 i lettori del Sole 24 Ore potranno trovare due pagine che trattano proprio questo argomento. Avevo già pronta l'informazione in canna, ma vedo che lei mi ha preceduto, ovviamente da grande professionista quale è. Arrivederci, colonnello, a presto. A presto, di nuovo. Alessandro. Ciao Radonaio. Indebitamento delle famiglie, l'indice di rischiosità di AD Consum è stato presentato lunedì. Famiglie siciliane le più indebitate d'Italia, scopriremo perché. Ieri è stata affossata una legge che prevedeva l'abolizione delle province. In campagna elettorale si diceva altro, ma quasi tutti hanno votato contro. Abolireste le province? È il sondaggio di oggi, radio24.it o il sole24ore.com per votare. Se volete intervenire, 800 24 00 24. Alle 8.34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il governatore di Banca Italia Mario Draghi dice che bisogna innalzare l'età del pensionamento. Replica il ministro del lavoro Sacconi: le riforme sulle pensioni già fatte sono più che sufficienti. La Camera ha affossato la proposta di legge sull'omofobia, che prevedeva di inserire un aggravante per i reati commessi per discriminazione sull'orientamento sessuale. E nel PD scoppia il caso Paola Binetti, che ha votato contro. Per lei si pone un serio problema di permanenza nel partito, ha detto il segretario Franceschini. È previsto per stamattina in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni l'interrogatorio di convalida dell'arresto per Mohamed Ghame, l'attentatore libico che lunedì scorso ha tentato di farsi esplodere davanti a una caserma a Milano. Domani toccherà ai suoi presunti complici. Infine per il calcio, stasera l'Italia, già qualificata ai mondiali, gioca a Parma e chiude il girone contro Cipro. Ieri l'Under 21 non è andata oltre l'1-1 con la Bosnia e ora per gli europei è a rischio la qualificazione. E allora, detto che il sondaggio di ieri, parlavamo di immunità parlamentare, ricordate, l'80% di voi l'ha bocciata, non la vuole reintrodurre, oggi parliamo invece di province. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Le province, voglio rinfrescare la memoria, da quanti anni si sente le province vanno abolite, da più parti, ma c'è anche chi le difende, insomma, le province vanno abolite, allora rinfreschiamo un po' la memoria. Berlusconi, 22 febbraio 2008, a Matrix. Tutta una serie di situazioni che vanno dall'abrogazione di enti inutili, le province, voglio ricordare che quando in Italia si approvarono le regioni, era tacito l'accordo di tutti che si abolissero le province, poi nessuno ebbe più il coraggio di parlarne. Berlusconi, il 4 marzo 2008. Quando in Italia si vararono le regioni, era indiscusso il fatto che si dovessero anche abrogare le province, poi non se n'è fatto niente. Credo che si debba andare in questa direzione e qui colgo l'occasione per dire che, visto che l'abrogazione delle principali province, delle aree metropolitane è anche nel programma della sinistra, io credo che su questo potremmo collaborare per riuscire a togliere di mezzo un cespite di costo notevolissimo. Fini, il 2 aprile 2007. Le province, mi spiegate a che servono? Vogliamo abolire le province? Ma posso fare una domanda? Al ceto politico, sì, al ceto, guarda, la provincia oggi serve al ceto politico, i consiglieri provinciali del mio partito mi diranno: ti sei ammattito, facciamone a meno. C'è uno sotto che diceva: vi voglio vedere, giurerei che era la voce di Tabacci dell'UDC, ma lo dico solo per così, siamo abituati in radio a riconoscere le voci, ma non lo so. Poi c'è anche Veltroni che aveva detto in campagna elettorale del PD: abolire le province almeno nelle aree metropolitane, quelle delle grandi aree. Oggi Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella dicono sulla posizione del PD. Veltroni chi? Sergio Rizzo, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi ho letto in rassegna stampa lo spassoso articolo che avete scritto, che hai scritto tu con Gian Antonio Stella. Si è riformata per un attimo la coppia della casta. Insomma, ma su questa delle province, io ho ricordato questi audio, ma ce ne sono infiniti, no? Che è successo? Che ieri è stata affossata una legge, la proposta dall'Italia dei Valori. Hanno votato solo l'Italia dei Valori e l'UDC a favore, tutti contro per l'abolizione delle province. Dunque? Non avevamo dubbi, perché in Italia funziona sempre così, no? Fanno una promessa in campagna elettorale e poi questa promessa finisce nel dimenticatoio, insomma. Io sinceramente non so più neanche che dire, perché tutti dicono la stessa cosa, le province sono inutili, abbiamo appena sentito, avete mandato in onda queste ispezioni di registrazione che parlano più di ogni cosa che si possa dire, insomma. Berlusconi aveva detto che bisognava abolirle, Fini aveva detto che bisognava abolirle, ma ce ne sono anche altri. Sì, sì, certo. Io per esempio ho trovato con Gian Antonio, ieri abbiamo ricordato un caso, che è quello del ministro Sandro Bondi, il quale disse pubblicamente che era necessario abolire le province che non servivano più e poi si è presentato alle elezioni come candidato del centrodestra alla presidenza provincia. Della provincia di Massa Carrara. Quindi sì. Se questa è la coerenza dei nostri politici, non ci si poteva aspettare altro. Da, ecco. Da parte invece poi del PD c'era appunto Veltroni che diceva e Berlusconi l'ha detto, visto che anche il centrosinistra le vuole abolire almeno nelle aree metropolitane, mettiamoci d'accordo. Insomma. Sì, e poi l'altro ieri Bressa, invece Gian Claudio Bressa, ha dichiarato: noi avevamo detto che volevamo abolire le province, ma quando mai? È mistificazione, ha detto. È una mistificazione. Insomma, comunque, io non lo so, però certamente un ceto politico che, diciamo, che si comporta così, francamente, non ha molto credibilità. Allora, tra l'altro il nostro sondaggio è chiaro: abolireste le province, sì o no? Devo dire, sul sito, dovete votare sul sito radio24.it alla sezione bianco o nero, la trovate in home page a destra. Per ora il 90% dice di sì, è quasi un plebiscito, già in tanti hanno votato, oppure sul sole24ore.com. ma io voglio salutare Massimo Donadi dell'Italia dei Valori, capogruppo alla Camera. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Così come saluto Fabio Melilli, che è presidente dell'Unione Province Italiane, presidente della provincia di Rieti. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Ogni tanto sa che dobbiamo fare, ci accaniamo contro le province, no? No. Di essere in un terreno non molto amico. Vabbè, Massimo Donadi, l'Italia dei Valori ha proposto questa legge, ha votato ovviamente a favore con l'UDC, ma è andata sotto questa legge. Vabbè, lei sarà d'accordo immagino con Sergio Rizzo a dire, cosa dite voi, ecco, è la dimostrazione della politica che promette e non fa? Infatti volevamo smascherare quello che abbiamo chiamato un partito di Pinocchi, che in campagna elettorale, quando si tratta di turlupinare un po' di elettori per carpirgli il voto, promettono di tutto, e poi in questi giorni abbiamo sentito le cose più incredibili. I detrattori delle province, perfino chi aveva messo la sua firma in calce a un progetto di legge per abolirle, si sono improvvisamente convertiti e sono venuti in aula a dire che la provincia è l'ente più importante del nostro paese. Cioè, chi è che l'ha fatto? Che smascheri questo guarda, Pinocchio. Adesso, davvero, non è per non volerlo fare, ma abbiamo detto, i nomi non me li ricordo tutti, ma abbiamo avuto pentimenti i più clamorosi. Lei pensa che erano più di 60 i deputati solo del PDL che avevano sottoscritto proposte di legge per abolire le province, e di questi ieri in aula soltanto due hanno avuto il coraggio di tenere fede a quello che evidentemente era stato un loro convincimento. Tutti gli altri si sono improvvisamente convertiti. Ed è il PD che il PD che è il vostro... è che si è persa davvero una grande occasione di fare una riforma utile al paese, perché le province hanno poche competenze, gran parte di queste competenze potevano essere agevolmente trasferite o ai comuni o alle regioni. E si è persa anche un'occasione di razionalizzare l'organizzazione dello Stato su base territoriale, che oggi ricordiamo ha in Italia 9 livelli diversi di rappresentanza, nessun altro paese ne ha così tanti, anche in vista della riforma federalista, che sarà tanto più efficace e tanto più si rivelerà un buono strumento per spronare gli amministratori pubblici a utilizzare al meglio i soldi e le risorse di tutti i cittadini, quanto maggiore sarà la possibilità di controllo. Ed è evidente che se l'azione amministrativa si disperde in 100 rivoli, in 9 diversi livelli di rappresentanza, sarà impossibile per i cittadini capire chi ha speso i loro soldi bene, chi li ha spesi male, chi fa cosa e chi non fa niente. Allora, Fabio Melilli, faccia il difensore, ma non d'ufficio, ma ci spieghi perché, spieghi ai nostri ascoltatori perché le province servono e perché è una... Fabio Melilli, tra l'altro, voglio ricordare, è il Partito Democratico, un uomo anche molto vicino a Franceschini. E, insomma, anche il PD disse, è vero, Veltroni disse, almeno aboliamo quelle delle aree metropolitane, delle grandi città. Ci spieghi perché servono queste province? Beh, lei però, se mi dice che io sono, se ricorda ai nostri ascoltatori che sono un membro dell'esecutivo del Partito Democratico, ha l'obbligo di farmi dire una cosa. Cioè, non è che si possono forzare, come dire, gli avvenimenti attribuendo irresponsabilità a una classe politica che almeno per la mia parte non è mai stata né falsa né irresponsabile, perché Veltroni non ha mai detto almeno, e il Partito Democratico non ha mai detto, siccome quel programma ha contribuito a scriverlo, che bisogna abolire le province. Ha detto nel programma elettorale, e mi permetta solo una, non me ne vogliano onorevole Donati, perché io so qual è la posizione del suo partito, ma quel programma elettorale che diceva vogliamo abolire le province nelle aree metropolitane, punto, senza almeno, è stato sottoscritto dall'Italia dei Valori. Allora, se ci dobbiamo richiamare alla coerenza, fate tutte le analisi giuste, corrette di una classe politica che in televisione dice una cosa e poi in Parlamento ne fa un'altra, però insomma rispetto al mio partito ha ragione Bressa, me lo permetta come chiosa, poi torno nel mio ruolo. Sì. è così, perché è così, noi abbiamo, cioè, che ha detto Bressa, agli elettori abbiamo detto che volevamo abolire le province che sono situate nelle città metropolitane. Domani mattina in Parlamento siamo disponibili dopo 30 secondi che qualcuno o noi la presentiamo, infatti questo ho detto, anche Berlusconi ha detto, visto che il PD, il centrosinistra, vuole l'abolizione almeno delle grandi aree metropolitane, cioè non ha mai detto via tutte le province, le 100 province di colpo, questo l'abbiamo detto, però perché difendere le province? Allora guardi, dopo il traffico, faccio informazioni sul traffico, poi sono subito lei, ci spiega, perché l'accusa è dire sono enti inutili, ci sono tanti livelli di controllo, dalle regioni, lo Stato, regioni, province, consiglieri, poi circoscrizioni, comuni, eccetera. E poi si dice costano anche troppo e fanno poco, ma tra poco ci spiegherà perché non è così dal suo punto di vista. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Abolireste o no, sì o no, le province su radio24.it per votare? Eccoci con Fabio Melilli. Allora, perché servono, presidente dell'Unione Province Italiane, perché servono, perché non sono uno spreco? Si difende. Ma perché? Perché innanzitutto tutta Europa è organizzata così e non capisco perché noi dovremmo essere diversi, e quando diciamo su tre livelli di governo, voglio dire, e quando diciamo che siamo troppi, su tre livelli, comuni, province e regioni in tutta Europa, e quando noi diciamo che bisogna semplificare il sistema, ne aboliamo uno dei tre che sono previsti in tutta Europa. Non è che aboliamo le comunità montane, gli ATO, i commissari e tutto quello che c'è di ridondante in questo paese e non sottoposto al controllo degli elettori, che questo credo sia un altro tema molto rilevante. Per quanto ci riguarda, noi siamo tra i primi a dire che in questo momento nel nostro paese c'è una ridondanza della pubblica amministrazione che il cittadino e le imprese non reggono più, ma questo nasce dal fatto che tutti facciamo la stessa cosa. Non creda che le province fanno poche cose, si dice un errore se quando si dice che le province fanno poche cose, perché altrimenti non si capisce come potrebbero valere 14 miliardi i bilanci delle province, no, in Italia evidentemente qualcosa si fa e si fanno. Purtroppo, come i comuni e come le regioni, ci sovrapponiamo su alcune funzioni amministrative per cui il cittadino non capisce chi fa che cosa. Tant'è che il codice delle autonomie dovrebbe servire, se il Parlamento ce la farà, a ragionare di unicità di una funzione amministrativa, di tornare a legare il potere alla responsabilità, e in modo che i cittadini possano sapere chi è che comanda e sapere di chi è la quindi, colpa. Diciamo, presidente, visto che lei dice noi siamo anche eletti, togliamo gli ATO, togliamo i soldi, i gettoni ai consigli di circoscrizione. No, eliminiamo proprio gli ATO più che i gettoni. No, i gettoni ai consigli di circoscrizione, oppure le comunità montane, che è un altro cavallo di battaglia, insomma, così andiamo a mimicarci le comunità montane piuttosto che le province. Io voglio andare per un attimo dall'onorevole Donadi una replica politica, perché dice sulla coerenza, e poi torno da Sergio Rizzo, la coerenza, dice l'Italia dei Valori, avevate sottoscritto il programma sulle aree metropolitane, mo adesso ve ne siete usciti, aboliamo tutte le province. Ah, vede, e questo è un po' il cavallo di battaglia di tutti i pentiti dell'abolizione delle province. Io vorrei capire se gli italiani hanno scelto i rispettivi schieramenti per quello che era scritto in anonimi programmi che nessuno ha letto, o per quello che i leader per l'intera campagna elettorale hanno detto loro. Io credo che la risposta sia questa seconda. Ho citato un'intervista, quella del 22 marzo 2008, dove richiesto dal giornalista di dire i primi due atti che avrebbe fatto per contrastare la crisi economica, Veltroni rispose come prima cosa abolizione delle province. E ci sono diverse altre interviste e dichiarazioni anche televisive. Ma mi scusi, onorevole, tutte le province, questa mi sembra una notizia, o quelle dell'area metropolitana? Messaggero, 22 marzo 2008, il testo è lì, sono quattro pagine di intervista a Veltroni, basta andarlo a guardare. E queste sono le dichiarazioni di tutti, per cui siccome non ho visto il giorno dopo smentite del Partito Democratico che dice Veltroni non ti sei attenuto al programma scritto, è evidente che c'è stato un programma che è quello che i cittadini hanno conosciuto, che è quello che è stato dichiarato pubblicamente in mille occasioni da parte dei... Quindi è quello che fa fede, secondo lei, giustamente dice, insomma, sono dichiarazioni pubbliche. Prima di Sergio Rizzo vuole andare a Fermo da Roberto, la state chiamando in tantissimi, devo dire che per il momento veramente rimane su quasi un plebiscito, il 91% sul sito della radio, anzi il 92% adesso dice siamo per l'abolizione. Allora, ci hanno chiamato in tanti, Roberto da Fermo, mi hanno detto che lei invece è a favore delle province nel suo pre-intervento al nostro centralino. Roberto. Anzitutto buongiorno. Buongiorno. Grazie per consentirmi di intervenire. Abbiamo scelto lei perché sa com'è. Io premetto che ero contrario alla istituzione della provincia di Fermo, anche perché fu istituita con un numero di abitanti inferiore alla soglia, pur avendo un numero di abitanti inferiore alla soglia. E premetto anche che, per esempio, quando si dice che costano tanto le province, se noi andiamo a vedere, la provincia di Fermo ha 600 dipendenti che sono più di quanti tu sono tutti funzionari regionali francesi. Quindi rendiamoci conto che anche è una questione di organizzazione. Ciò detto, secondo me le province sono importanti perché hanno delle competenze importanti, la viabilità, l'ambiente, e sono a contatto più con i cittadini sul territorio. Per quanto per quella che è la mia opinione, essendomi io confrontato anche con esperti, così, ritengo che invece siano le regioni il punto formare, ecco. Aboliamo le regioni. Da abrogare, perché sappiamo che hanno la competenza in politica estera, gestiscono la sanità in maniera molto spesso irresponsabile, per usare un eufemismo, e sono dei centri di spesa formidabili. Lei dice bello, spostare su altro. Aboliamo le regioni, grazie Roberto, piuttosto che le province. Mi piace come provocazione. Sergio Rizzo, voglio tornare da te. Allora, oggi sul Corriere della Sera leggete una cosa spassosissima in chiusura di questa paginata sulle provinciali. Bisogna dire che la legge impedisce a un parlamentare di essere eletto presidente della provincia, ma non il contrario, quindi a un presidente della provincia non può essere eletto in Parlamento, basta fare il percorso contrario, prima essere parlamentari e poi diventare presidente della provincia. Ci sono dei casi, ne cito uno, quello del bresciano Daniele Molgora, sottosegretario all'economia, presidente della provincia e onorevole, un esempio di trilocazione mai tentato neppure dal santo fakiro Sai Baba, capace al massimo di apparire insieme nell'Andhra Pradesh e a Toronto. Questa, devo dire, Rizzo, è straordinaria, no? Questo è un caso nei casi, poi c'è quelli che tengono anche due o addirittura tre poltrone. Ma questa è la dimostrazione che diciamo, o non serve una cosa o non serve l'altra, perché non si capisce il motivo per cui un parlamentare debba fare anche il presidente di provincia, ma non dico anche il sindaco di comuni grandi, perché non ci dimentichiamo che in Parlamento ci sono anche i sindaci di Catania, di Viterbo, di Brescia, via discorrendo, insomma, no? Però diciamo, ha ragione Melilli, secondo me, cioè qui il punto è stabilire chi fa che cosa e soprattutto razionalizzare le competenze. Insomma, ci sarà un motivo se alle recenti elezioni provinciali non si è raggiunto neanche il 50% di partecipazione al voto, no? Mentre invece alle europee naturalmente la partecipazione è stata molto più alta. Questo è un indice importante, cioè i cittadini hanno capito che c'è qualcosa che non va. Quindi, se non sono andati a votare per le elezioni provinciali, vuol dire che non sentono, come dire, l'esigenza di avere una loro rappresentanza a livello provinciale. Questo mi pare evidente, insomma. Quindi forse bisognerebbe partire da qui per fare una riflessione e bisognerebbe dire anche una cosa per chiudere, Sergio, voi lo spiegate oggi molto bene sul Corriere, una parte dei proventi delle province va, questo proprio come informazione, la gente forse non lo sa, sulle assicurazioni di auto e moto. Quindi quando ci aumentano le assicurazioni, sappiate che giustamente lo prevede la legge, una parte va anche a finanziare. Tant'è che si sono lamentate anche alcune di queste province perché siccome c'è stata una flessione, pare, del gettito dell'RC auto, c'è stata una flessione anche, diciamo, degli introiti, esatto, di quel capitolo lì. In ogni caso, questo è che dire, votate sul sito. Io devo ringrazio tutti, Sergio Rizzo del Corriere della Sera, così come l'onorevole Massimo Donati dell'Italia dei Valori, Fabio Melilli che è presidente della provincia di Rieti del Partito Democratico e presidente dell'Unione Province Italiane. Votate su radio24.it, ripeto, al momento il 90% dice aboliremmo le province, uno sguardo anche sul Sole24ore .com, anche lì 91%, insomma, il dato è simile. Potete votare su radio24.it appunto o il sole24ore.com. ringrazio Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, e noi ci ritroviamo con 24 Mattino domattina alle 7:30. ora Oscar Giannino.